Radio 24 Reportage. La bioraffineria che non ruba il cibo, di Laura Bettini. Sono passati 2 anni e mezzo dalla prima volta che andai a Crescentino, provincia di Vercelli, ma non è cambiato granché. Per arrivare si attraversa ancora la solita pianura padana da manuale, campi, risaie, pioppeti, capannoni, col guizzo giusto di Trino Vercellese, famosa per aver ospitato una delle poche centrali nucleari italiane. Poi, finalmente, Crescentino. Se allora mi era sembrato che ci fosse molta gente, questa volta devo moltiplicare per 3. Per raggiungere quello che fu lo stabilimento della fonderia Texid, mi tocca una coda di 15 minuti, e poi abbiamo anche da far spazio alle auto del ministro, del suo codazzo, del prefetto, del questore o di chissà chi. Americani, russi, cinesi, giapponesi, indiani. Tutti qui per l'inaugurazione ufficiale della bioraffineria Beta Renewables, società del gruppo Mossi e Ghisolfi. La prima al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione da biomasse non alimentari. Vuol dire basta discussioni sulla scelta tra cibo e biocarburanti. Qui si utilizzeranno canna comune di fosso e biomasse lignocellulosiche, il che significa un po' tutto, dalle potature agli scarti di produzioni agricole. Tutto in filiera locale. Un colpaccio della ricerca italiana, replicabile nel resto d'Italia ma anche nel mondo. E infatti, tra gli ospiti ci sono le autorità regionali e locali, ma anche il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, gli ex ministri Profumo e Clini, che seguirono gli anni della realizzazione dell'impianto. E a Roma c'è un altro ministro che perlomeno pensa a Crescentino, il titolare dell'ambiente Orlando, che con Zanonato, subito dopo l'inaugurazione, firmerà il regolamento che finalmente definirà cosa sono le bioraffinerie, con che criteri si realizzano, con quali si controllano. Grazie all'esperienza fatta a Crescentino. Sale sul palco il cavaliere Vittorio Ghisolfi, fondatore della Mossi e Ghisolfi, specializzata nella produzione di imballaggi in plastica per il packaging, che di questa storia è la protagonista. Con un gesto di altri tempi ringrazia subito i responsabili della sicurezza, che hanno concluso senza incidenti 1 milione di ore di lavoro in 2 anni e mezzo. Ma il resto della mattinata lo guida il figlio, Guido Ghisolfi, oggi in veste di amministratore delegato di Beta Renewables, società proprietaria dell'impianto, appunto, nata da una joint venture tra BioChemTex, società di ingegneria del gruppo Mossi e Ghisolfi, il fondo americano TPG, Texas Pacific Group, e il leader mondiale della bioinnovazione, la danese Novozymes. L'ingegner Ghisolfi è felice, ma non si crogiola negli allori di oggi. In un ambiente dove i biocarburanti hanno promesso per decine di anni e hanno mantenuto molto poco, soprattutto quelli di seconda generazione, questo è un cambio di paradigma. Noi siamo la prima grande azienda che mette a disposizione un impianto industriale a livello mondiale. Quello che mi preme sottolineare però è che siamo la prima. Nel 2014 ci saranno grandi aziende come la DuPont, come la DSM, come la Bengoa e come la Raisin che faranno partire i loro impianti. Quindi di colpo questo non è più una tecnologia molto difficile in mano a qualche startup, ma è una tecnologia consolidata, industriale, che quindi dà delle garanzie agli investitori internazionali che è qui per restare. L'impianto è frutto di un investimento da 150 milioni di euro, cui ha partecipato anche la Regione Piemonte, che ha dato il suo contributo in denaro, ma soprattutto con spazi per la ricerca. Ma cosa si produrrà esattamente a Crescentino? Bioetanolo, sì, ma non solo. Il prodotto bioetanolo viene usato per miscelazione con la benzina. In realtà questo, la tecnologia produce prima degli zuccheri, questi zuccheri vengono poi fermentati a Crescentino ad etanolo. L'interesse internazionale è sì per l'etanolo, ma è soprattutto per questi zuccheri, perché quando li si paragona con lo zucchero di produzione, diciamo, internazionale, sul prezzo internazionale dello zucchero, stiamo parlando di un valore che è circa metà. Per cui ci sono delle aziende che nel mondo hanno sviluppato delle tecnologie che funzionano, ma che non potevano applicarle perché lo zucchero è troppo caro. Allora, se noi mettiamo a disposizione zuccheri che hanno un valore di cassa di 1/3 e finito, quindi compreso l'ammortamento, di metà dello zucchero, e soprattutto non hanno queste oscillazioni drammatiche, perché lo zucchero è passato da 37 centesimi la libra a 20 centesimi, è stato anche 8, quindi chi produce e fa investimenti quindicinali non può pensare di investire centinaia di milioni e poi essere alla mercé di un mercato di commodity che qualche volta si modifica non per la questione di costo di produzione, ma per questioni di speculazione sui futures. In questo caso lei si presenta con una bioraffineria sul territorio che è legata a una produzione dedicata di biomassa che non può essere utilizzata per nient'altro e che quindi le dà una stabilità di prezzo che, oltre a essere conveniente per sé, ha il vantaggio di non avere queste variazioni un po' erratiche del prezzo. La tecnologia che permette tutto questo è stata ribattezzata Proesa. La tecnologia di Proesa prende la biomassa, la scalda e la fa bollire in una pentola a pressione, è proprio un pressure pot. Una volta che questa biomassa è bollita, viene aperta con pressione e temperatura, di modo da poter alimentare gli enzimi, che sono come delle forbici organiche che tagliano le fibre cellulosiche e emicellulosiche in zuccheri semplici. Questi zuccheri semplici sono equivalenti allo zucchero che viene estratto dalla barbabietola e dalla canna da zucchero, quindi vengono alimentati oggi al Saccharomyces, che è un lievito che mangia zucchero e produce alcol, domani a altri microrganismi che le varie Codexis, Amiris e Genomatica mettono a disposizione per produrre non più alcol ma prodotti chimici più sofisticati. Gli stakeholder a valle, quindi dai supermercati alla Coca-Cola, hanno dichiarato che hanno assolutamente bisogno di prodotti che abbiano fonti rinnovabili come feedstock. In questo momento noi abbiamo due elementi della catena di Crescentino che sono fondamentali. L'elemento di zuccheri C5 che porterà alla produzione di glicoli, tra cui il glicolo etilenico, e l'elemento lignina che è circa un terzo della biomassa e che viene in qualche modo isolata perché risulta come non fermentabile dal prodotto di Crescentino, che è all'85% aromatici. Quindi l'estrazione degli aromatici dalla lignina porterà alla produzione di praxilolo e di benzene che serviranno l'uno per il PET e l'altro per il nylon. Noi abbiamo aperto a Bari un centro di ricerca specifico sulla lignina. Ci aspettiamo un impianto dimostrativo che produca non tonnellate ma migliaia di tonnellate di questo prodotto alla fine del 2015. Quindi bioetanolo, ma anche zuccheri e infine lignina. Un campo vasto con applicazioni ampie e un pubblico altrettanto ampio di interessati. Per mettere una bandierina su questo impianto è arrivato anche Umberto Delgado Rosa, della Direzione Generale Azione per il Clima della Commissione Europea. It was co-financed. È un progetto significativo anche perché è stato cofinanziato dal mercato delle emissioni europeo. È un programma specifico per sostenere energie rinnovabili innovative. Con questo progetto si dimostra che le politiche per il clima e l'ambiente possono portare una crescita di occupazione, innovazione e non problemi per l'economia. Siamo molto felici della realizzazione di questo progetto, che è il primo a concretizzarsi nell'ambito del programma NER 300. Se si comincia a pensare in grande, come un buon imprenditore deve saper fare, senza strafare però, si può cominciare a pensare già ad altri impianti nelle aree agricole abbandonate, per esempio. Costano milioni di euro, ma gli investitori, assicura Ghisolfi, sono pronti. L'Italia, come dicevo, ha 18 milioni di tonnellate di residuo, ma soprattutto perde 100.000 ettari all'anno di terreno che lo viene coltivato. Io ho citato le regioni del sud, Sardegna, Sicilia, Puglia. In quelle zone ci sono decine di migliaia di ettari che non vengono coltivati per niente da decine di anni. Sono quelli l'oggetto della nostra attenzione e dell'attenzione dei nostri partner strategici. Bisogna convincere, cosa che è assolutamente vero, però la percezione non è quella, che anche un investimento relativamente modesto di penetrazione 6, 7, 8% porterà in questo paese decine di migliaia di posti di lavoro e che l'Italia lo può fare, perché chiaramente lo può fare. Questa era un'area pesantemente inquinata dalla precedente produzione industriale, la fonderia Texid, come si diceva. È stata necessaria una bonifica, ma il futuro come si prospetta? L'abbiamo chiesto a Peder Olk Nielsen, amministratore delegato di Novozymes, l'altro ramo scientifico della joint venture di Beta Renewables. Onestamente non conosco quali fossero le condizioni di questo stabilimento prima, ma l'impianto attuale non ha alcuna emissione. L'acqua è pulita dagli impianti di trattamento. Gli scarti vengono utilizzati per generare energia. Le persone qui possono dormire tranquille ed essere orgogliose di questo impianto. Il successo di oggi non fa dimenticare le difficoltà di ieri. 2 anni fa, ricorda Ghisolfi, si pensava di portare a termine i lavori in 12 mesi. In un sito dove tutti erano d'accordo, dove tutti hanno collaborato, ci abbiamo messo 2 anni ad avere il permesso, non per operare, per costruire. Allora, evidentemente, uno dei problemi per attirare finanza di dimensioni e di struttura internazionale è che non possiamo andare dai nostri azionisti e finanziatori e dire forse un giorno avremo il permesso. Bisogna dire avremo il permesso alle 5 del pomeriggio di quella data lì. La sindaca di Crescentino, Marinella Venegoni, che è anche un critico musicale per il quotidiano La Stampa, è contenta ma preoccupata insieme e non l'ha nascosto alla platea internazionale nel giorno dell'inaugurazione. L'impianto è una speranza per la popolazione che deve realizzarsi. Qualche sassolinetto bisogna toglierselo, perché Crescentino si giova molto di questa cosa, noi 8.000 abitanti, e abbiamo ancora sulle spalle l'inoccupazione che è seguita al disfacimento della Texit, che era la più grande fonderia d'Europa. Qua sono rimaste 800 famiglie senza lavoro sostanzialmente, quindi io ho il comune pieno di disoccupati, sfrattati, famiglie con bambini, luce e gas tagliati. Sapete cosa vuol dire? Tutti i giorni io non faccio più sindaco, faccio l'assistente sociale praticamente. E allora questa qui un po' è una botta di speranza, ma un po' questa speranza si deve concretizzare, perché cioè, qui al di là dei ricercatori, qui ci vorrà anche mano d'opera, ci auguriamo infatti, che venga presa in loco. Questa è la grande speranza, è quello che cerchiamo di fare, di incoraggiare, rompendo anche le scatole agli amministratori delegati, consegnando l'elenco dei disoccupati, insomma ne facciamo di ogni, perché abbiamo bisogno che le famiglie abbiano lavoro. Per il momento che riscontro c'è stato da parte dell'azienda? Ma c'è stato da parte dell'azienda c'è attenzione alla comunità, per carità, su questo non mi posso lamentare, l'azienda è vicina alla comunità, è vicina per quanto riguarda grandi cose, la squadra di calcio, la parrocchia, insomma hanno fatto alcune donazioni, niente da dire. Quello che interessa sono delle assunzioni, siamo votati alle assunzioni d'ora in avanti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.